Ciao mondo, dimmi come va, c'è un suono nuovo nell'aria, salirà fine cielo, vedo un arcobaleno, ora spero per sempre sarà sereno, sento il canto del vento, nessuno spavento, delicato come un tempo che passa, ma è un segno che ti lascia, una macchia che trapassa, allacciare e spacca, scappa, ma non puoi cancellare dai tuoi occhi quel dolore, senti ancora l'odore di un sapore non cercato né di certo voluto, ma lui ha deciso e senza avviso di avvestito, urli no, non ti ha sentito, cerchi di scappare ma fa male, sale quel rimorso, non sai che fare, non pensare, vola via, tanto sai non sarai mai sua, paura è finita, è un brutto sogno che ti ha dato la vita, sei sveglia, non tremare, ti ritrovi in una stanza di ospedale, Luce ridona i suoi occhi, voglia di guardare, buio restituisci le sicurezza di amare, tempo cancella quelle lacrime che non sono d'amore ma che lasciano sperare, tu ora dimmi come spiegarle che questo può succedere e il perché a lei. Ciao mondo, dimmi come si fa a privare una persona dell'intimità, sporcare ciò che era amore, ora è dolore, violare quello che è come un fiore, parole non di conforto ma da sole, non riparano ad un torto, è tutto da rifare, vorresti cancellare la cosa che ti manca per ricominciare, alzati ma fallo in fretta, non lasciare che la vita prenda un'altra fetta, c'è chi ti aspetta, rispetta per vivere e vedrai, tornerai a sorridere. Luce ridona i suoi occhi, voglia di guardare, buio restituisci le sicurezza di amare, tempo cancella quelle lacrime che non sono d'amore ma che lasciano sperare, tu ora dimmi come spiegarle che questo può succedere e il perché a lei. Mondo, tu non sai quanto difficile è vivere da te, a volte è impossibile, ora più che mai sarà irripetibile, questo tu lo sai, non dovrà succedere, fai il possibile, l'inimmaginabile, purché possa servire a proteggere l'intoccabile. Luce ridona i suoi occhi, voglia di guardare.